Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dunque, in qualche numero per cominciare, per esempio i 12 e passa milioni di spettatori spagnoli che hanno seguito ieri sera il Classico, l'andata di questa semifinale di Coppa Campioni, Real Barcellona, 12 milioni e passa, con un punte di share a Madrid del 72 qualcosa per cento e a Barcellona del 71. Però anche in Italia 6 milioni e passa di telespettatori, per uno share del 20%, credo sia il record per una partita di club tra squadre straniere, cioè senza italiane in campo e senza nemmeno italiane coinvolte indirettamente, visto che l'altra semifinale è stata Schalke Manchester United. Messi è arrivato a 52 gol in 50 partite stagionali. Con la doppietta di ieri è salito al terzo posto, mi segnala Franco Piantanida, dei cannonieri di ogni epoca del Barcellona, dietro a César Rodríguez e a Laszlo Kubala, fuori classe degli anni 50. La differenza tra Barça e Real ieri, questa è una curiosità, ma insomma una curiosità che poi alla fine ha un senso: i 19 giocatori convocati ieri da Mourinho erano in media di 6 cm più alti e di 4 kg più pesanti dei 19 del Barcellona. Poi è una curiosità che, se vogliamo, alla fine, se moltiplichiamo 6 per 19, abbiamo una discreta statura in più, no? E 4 kg per 19 invece pure. Poi alla fine la differenza invece l'ha fatta il talento non del più magro, perché Messi ha una struttura solidissima, ma certamente non so nemmeno se sia il più piccolo del Barça, perché lì è una bella gara, ma certamente di quello dotato di maggior talento e di uno dei due fuoriclasse in campo. L'altro, Cristiano Ronaldo, ha passato forse più tempo a invitare i suoi compagni a seguirlo nel pressing, a provare ad attaccare, a vedere se si poteva magari giocare ogni tanto che all'attacco, anche nella metà campo avversaria, no? Di quanto invece abbia potuto fare come attaccante, cercando di sfruttare di sfruttare il non gioco del Real. Il Real ha scelto inizialmente, a parer mio, in maniera giusta, logica, con un giusto senso di realismo e di rispetto dell'avversario, ha scelto un atteggiamento iniziale tipico da 0-0, lasciando in panchina molti dei suoi campioni per una gara d'attacco e impostando invece la partita come era già stato nelle due sfide precedenti, soprattutto quella vinta lo scorso mercoledì in Coppa del Re. Poi però all'inizio del secondo tempo, quando il Barcellona stava palesemente perdendo colpi e quando il suo palleggio fitto stava rallentando, quando c'era stata qualche uscita dalla zona difensiva non felice, qualche pallone perso in maniera banale, forse pericolosa, beh, insomma, credo che quello sarebbe stato il momento di giustificare, no? Da parte dell'allenatore, di giustificare qualche centinaio di milioni di euro spesi negli ultimi due anni da un presidente che non ha mai badato a quattrini, no? E invece, al momento topico della partita, a entrare assurdamente, in ogni caso, perché non ha senso entrare su Dani Alves in una zona di campo non di sua pertinenza, è stato Pepe, anziché per esempio Kakà, anziché per esempio Benzema, anziché per esempio Higuain, cioè uno di quei tre sfigati che stavano sulla panchina del Real Madrid, mentre su quella del Barcellona c'erano Afellay, l'unico giocatore professionista di tutta la panchina, che in effetti quando è entrato qualcosina ha fatto vedere, anche se una giocata sola, e poi altri 5-6 bambini della cantera, che in Catalogna si chiama Masia. Credo che, vi ho dato dei numeri prima, non vi dico i numeri di mail a cui dichiaro fin d'ora che in questo caso non riuscirò a rispondere, e io chiedo scusa in partenza, ma sono troppe. Sinceramente dovrei, giuro che le ho lette tutte, ma se mi metto a rispondere a tutte le mail che hanno cominciato a fioccare dalla mezzanotte di ieri sera e che non stanno assolutamente smettendo, a parte già chi preme al centralino eccetera, non ne uscirei, e quindi chiedo scusa. Molte le citerò e leggerò dei frammenti di queste mail. Nel frattempo, ecco, questo mi sembra un dato vero su cui riflettere. Ieri sera il pubblico del Bernabeu, anche perché a caldo le sconfitte, insomma, si fa un po' più di fatica a giustificarle o ad ammetterle, molto perché suggestionato dalle sceneggiate che sappiamo, il pubblico del Bernabeu, ma in generale il pubblico madridista, era abbastanza dell'opinione di essere stato maltrattato e di aver subito un grave torto. Attualmente invece è in corso un sondaggio di Marca, e Marca è il quotidiano sportivo spagnolo di riferimento del Real Madrid, a differenza del Mundo Deportivo, che è quello di riferimento Blaugrana. Hanno votato al momento 78.000 lettori, 78.145 lettori alla domanda: credete che l'entrata di Pepe meritasse il cartellino rosso? Il 75.1% ha risposto di sì, su 78.000 votanti. Altro sondaggio, qui hanno votato invece soltanto in 14.800, ma che comunque non sono esattamente quattro gatti. Ha fatto bene Mourinho a scegliere la tattica di cautelarsi e non attaccare. Il 92.6% di quei 14.000 ha risposto no. Ha ragione Mourinho a prendersela con l'arbitro per una congiura a favore del Barça. Su 55.879 lettori di Marca, il 72,6% ha risposto no. I sondaggi sono ancora in corso. Ancora in corso sono le vostre chiamate al centralino. Io comincerei a leggere qualche mail tra le tante arrivate, qualche segnale, poi dopo l'intervallo cominciamo a passare i vostri interventi in diretta. Luca Federa da Belluno scrive: quale miglior ossimoro che non vedere Mourinho impegnato nella sua folle conferenza stampa post partita, mentre alle sue spalle sullo sfondo si legge sul cartellone UEFA la scritta RESPECT. Proprio un bel esempio di rispetto, fa osservare Luca da Belluno. Massimo Caci, contento e soddisfatto per come è andata. Franco Ferrarini, da Parma: il vecchio Mourinho si era pure preso un bel vantaggio, quella vittoria in Coppa del Re, per poter dire ai suoi che si poteva vincere. Una forma fisica complessivamente migliore rispetto a Barcellona, e questo è oggettivamente vero. Mancava solo l'aspetto psicologico, condizionamento dell'ambiente. Certo, di potere tecnico neanche a parlarne, con quel Pepe messo a tirare calci che avrebbe dovuto non finire la partita nemmeno in finale di Recopa. Ecco, questa era stata una differenza che mi ero permesso di sottolineare la scorsa settimana, e cioè che il Real certamente si era convinto 7 giorni fa, battendo il Barcellona, di avere non domato del tutto il complesso Barça, ma insomma comunque di essere a buon punto, e in ogni caso di aver ottenuto finalmente un successo in un confronto diretto, tutto sommato meritato a parer mio. Però avevo provato a segnalare che altro è giocare con un arbitro spagnolo che dica Mourinho, subisce fino a un certo punto il fascino dell'UNICEF, per dirla con le parole dello scienziato. Mentre invece gli arbitri internazionali, e ieri sera abbiamo sentito un lungo elenco di Mourinho, Busacca, De Blecker, eccetera, un grottesco elenco dei migliori arbitri del continente trattati come se fossero dei corrotti e dei corrotti dall'UNICEF. A questo siamo arrivati, lasciando e dando sempre più spazio a questo personaggio che mi ero permesso di segnalare già un paio d'anni fa, altro non fa se non avvelenare i pozzi del calcio internazionale, del calcio di tutto il mondo. In Spagna ho la sensazione che abbiano tempi di reazione diversi dai nostri, e una sensibilità un po' più acuta rispetto a quella che abbiamo dimostrato noi nei suoi due anni italiani per il momento, perché poi potrebbero essercene ancora. Ma quale congiura, scrive Damiano da Roma, Messi sembrava tomba mentre faceva il suo migliore slalom tra i difensori madridisti. Ecco Damiano, questa è una magnifica immagine, ieri sera ho avuto la stessissima sensazione. Pensi che quando ho capito che qualcosa di speciale stava per succedere, forse ho anche sperato, non lo so, perché come forse è noto, un debole per Messi, perché quando ho visto Messi dar la palla a Xavi e Xavi non restituirgliela in profondità, ma fermarla, stopparla, la sensazione che ho avuto è quella proprio della partenza di uno slalom, cioè come se Xavi avesse detto: qui c'è il cancelletto di partenza e adesso ti facciamo prendere, fermando la palla facciamo prendere il tempo. Da lì è partito quello slalom. Lei scrive tomba, a me torna in mente, per ragioni anagrafiche, Töni, Stenmark, comunque un fenomeno assoluto che, insomma, con quel gol ha anche nobilitato una partita che dal punto di vista spettacolare sinceramente aveva dato poco, molto poco, molto inferiore alle attese dal punto di vista spettacolare. E dopo vi leggerò un po' di mail, ho cercato di dividerle per argomenti, perché ci sono alcuni ascoltatori che su questo hanno posto l'accento. Adesso sentiamo qualche voce in diretta. Alex Udine, buongiorno. Ah, salve Garanzini, cercherò di essere veloce, due cose. Una che è diventata quasi scontata, che è la grandezza assoluta di Messi, su cui niente, nessuno può dire ormai, può fare paragoni con questo o quest'altro, perché Messi è Messi e lo rimarrà fino alla fine di questo sport, credo. Sì, anche se Alex prima di ieri c'era anche chi sosteneva che Messi è un giocatore non da partite decisive, o non decisivo nelle partite che contano. Quindi io credo che gli manchi qualcosa in nazionale, per il resto non credo si possa discutere comunque assolutamente. Velocemente, dispiace allora, per quanto riguarda Mourinho, credo niente di nuovo all'orizzonte, perché il solito Mourinho, se si vuole proprio andare a cercare l'unica cosa reale che ha detto, è che onestamente il Barcellona dei favori li ha ricevuti in partite decisive, o quantomeno gli arbitri non hanno mai avuto, diciamo, il dubbio se fosse una giusto espellere o non espellere, dare un rigore o non rigore. C'è stato sempre un unico metro di misura. Questo non cambia che Barcellona è la squadra più forte in assoluto. Seconda cosa, dispiace un po' vedere Cristiano Ronaldo, che insieme a Messi, dopo Messi, è il miglior giocatore del mondo. Mi sembra veramente lasciato lì un po' da solo e mi sembra quasi destinato a non vincere niente per i prossimi anni. Allora, un momento, vincere niente, calma, lui ha firmato e ha vinto la Coppa del Re di Spagna esattamente 7 giorni fa e quindi questo è un trofeo, perché insomma, Real e Barça se ne giocavano 3, no? In questi 18 giorni di sfide siamo arrivati alla terza. Allora, il campionato era già praticamente andato prima con il pareggio del Bernabeu e il fatto che siano rimasti 8 punti, poi si è giocata una giornata ulteriore. Il campionato, 8 punti su 15 disponibili, sembrerebbe proprio il Barcellona. La Coppa del Re l'ha vinta il Real Madrid. La Coppa del Re in Spagna è un trofeo forse più sentito che da noi, ma in ogni caso è un trofeo molto, molto inseguito. Non c'era una finale Real Barcellona da un sacco di anni e questo gli ha aggiunto valore. L'ha vinto Reale, quindi per ora sono pari, dopodiché sono un po' più dispari da ieri sera, perché 2-0 fuori casa è un punteggio che rende favorito il Barcellona per il ritorno, ma la partita non è finita, la partita è finita quella di ieri sera, ma la qualificazione si gioca ancora. Poi è ovvio, ripeto, che in questo momento pende dalla parte del Barça, ma sono convinto che martedì sera al Camp Nou non andrà per fare da spettatore Real Madrid, e magari hai visto mai che perso anziché schierare una squadra di difensori prova magari con qualche attaccante in più, e chi dice che debba già essere finita questa sfida. Daniele Avellino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei, a Radio 24. Allora, prima di fare la domanda, mi permetto una considerazione riguardo alla parte finale della trasmissione di ieri, in cui lei ha fatto l'ennesimo paragone negativo contro Mazzarri, del quale si può essere legittimamente avere un'antipatia, voglio dire, ma non capisco la differenza tra Mazzarri, dal punto di vista personale, tra Mazzarri e Allegri, solamente perché Allegri ha un faccino pulito e Mazzarri è più sanguigno, più ruspante. No, il faccino non c'entra. No, mi sembra di sì, perché voglio dire, un signore si vede quando perde, non quando vince. Allegri dobbiamo vederlo quando perde, Allegri, prima di dire se uno è più signore dell'altro. Ma sa qual è il problema? È che Allegri che perde o abbia qualche torto arbitrale, ecco. Sa qual è il problema, Daniele? Che Mazzarri non è signore nemmeno quando vince. Questo è il problema. Mazzarri è l'allievo prediletto di Mourinho, poi non so se lo sia consciamente o meno, magari Mourinho gli è anche antipatico, ma non so se volendolo o non volendolo è l'uomo, è l'allenatore che più si avvicina nei comportamenti, negli atteggiamenti e nell'antisportività a Mourinho, senza naturalmente raggiungere il modello, perché il modello non è irraggiungibile, è proprio, insomma, impensabilmente lontano, sideralmente lontano. Vado al nocciolo, scrive Michele Gabrielli. Non crede anche lei che campione o non campioni, milione o non milioni, stregoni o non stregoni, quando le squadre giocano a non giocare, il risultato sia identico a ogni latitudine? E forse ancora più esecrabile proprio per la presenza in campo di tanti campioni, milioni e stregoni. Questo è firmato Michele Gabrielli da Firenze. Lo stesso concetto Mirko Emilio Zazzini, che scrive: non ho visto chissà quale spettacolo da pelle d'oca, fatta eccezione per l'extraterrestre Messi. Al contrario, ho notato proteste continue, falli cattivi, ammonizioni richieste e buon ultimo anche il grande pubblico spagnolo che puntava il laser negli occhi del portiere del Barcellona. Con questo, senza nulla togliere ai soliti idioti presenti purtroppo sempre nei nostri stadi, è giusto far notare che tutto il mondo in un certo senso è paese. Questo è abbastanza vero rispetto a chi puntava il laser, poi rispetto ad altre cose, altri comportamenti, altre abitabilità di stadio, no, lo trovo leggermente sciovinista questo concetto. Mentre Mario Rosato da Cornedo Vicentino, secondo me esagera un po', perché l'importante è esagerare, dice: l'altra sera ho visto una squadra normale battere un avversario che forse farebbe bene nel campionato italiano di B. Allora ci ho messo un po' a capire qual era l'altra sera, e l'altra sera era Schalke-Manchester. Allora, secondo questo signore, ripeto, Mario Rosato da Cornedo Vicentino, la squadra normale è il Manchester United, un avversario che forse farebbe bene in Serie B è lo Schalke 04, che ha appena rifilato 7 gol all'Inter in 2 giornate. Ieri sera, pieno di speranze, mi sono accomodato sul divano e ho visto una partita in campionato italiano di Serie A, nel senso di partita mediocre con Melina, Brera la chiamava così, adesso si chiama possesso palla, questa è un'osservazione interessante, esasperata, irritante, giocatori fallosi e simulatori, risse tra un tempo e l'altro, è una squadra chiusa in difesa non si sa di che cosa, il solito dopo partita di accuse ai poteri forti. Se il fenomeno Messi non avesse deciso che era ora di finirla, sarebbe stata annoverata come una delle partite più brutte degli ultimi anni. Adesso, una partita più brutta degli ultimi anni? No, una partita molto deludente in rapporto alle attese di spettacolo, questo certamente sì, ma non sarà la prima e non sarà nemmeno l'ultima volta che due squadre che molto si temono, molto si rispettano e si giocano, se non una stagione, quasi una buona parte di stagione, in realtà non danno vita, per paura, per timore, per cosa, non danno vita a un grande spettacolo, anzi. Io credo che la maggior parte delle partite e un gran numero di finali in particolare siano così. E ogni volta mi meraviglia questa meraviglia. Luca, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Buongiorno. Niente, io volevo solo dire, chiaramente fare commenti negativi su Mourinho è solamente retorica, quindi niente di nuovo. Invece, per quanto riguarda le cose imbarazzanti, gli arbitri che lui alludeva ieri sera, di imbarazzante, io veramente l'unica cosa che ho visto è il 72% di possesso palla a Barcellona col 28% a Real Madrid. Questo secondo me è un dato imbarazzante, non gli hanno fatto vedere la palla. Poi lui ha dimenticato magari di ricordare quando lui ha battuto l'Inter, quando è stato annullato un gol in fuorigioco. Sì Luca, ma sì, lo so Luca, infatti lui ricorda quello che vuole, però io cercherei di non fare il suo gioco, non le dico il blog che tengo per il Sole 24 Ore, ovviamente è partito da lì e ci sono già decine di interventi cui si accapigliano sul fatto se l'anno scorso il gol di Bojan che alla fine ha pareggiato tutto, cioè, è chiaro che Mourinho ricorda e segnala solo ognuno quello che vuole, no? Questo è uno sport in cui tutti si esercitano e tutti ci riescono, anche senza bisogno di allenarsi tanto, ciascuno l'acqua l'ha sempre tirata al proprio mulino. La differenza di Mourinho è che mentre qualcun altro ogni tanto un soprassalto di pudore ce l'ha, lui non sa che cosa sia, per cui di tutte le decisioni che lui ha chiamato in causa ha ricordato ovviamente solo lo scorso anno Inter-Real Barcellona fu, secondo me, vide passare meritatamente il turno all'Inter, ma in quei 180 minuti, 180 più recuperi abbondanti, ci furono quattro episodi arbitrali. Di quei quattro episodi arbitrali, tre furono favorevoli all'Inter e uno invece fu favorevole a Barcellona, che era l'espulsione discutibile di Thiago Motta. Per pura combinazione Mourinho ricorda soltanto quell'episodio lì e ha dimenticato gli altri tre. Gli ha rimossi, cosa volete farci? Sarà andata così, insomma, non lo farà mica apposta, no, povero. Lorenzo Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Riprendo il concetto di Mourinho perché al di là della partita di proprio di ieri, che non è stata certamente entusiasmante, ma purtroppo mi è capitato di vedere la conferenza stampa successiva e avrei certamente fatto più volentieri non guardarlo, perché in un quarto d'ora gli è stata lasciata la parola, ha continuato in modo veramente sconcertante a chiedere mille perché ce l'hanno contro il Real Madrid, mille perché è successo tutto quello che è successo, ma perché nessuno gli ha chiesto, ma perché i tuoi cinque giocatori non sono riusciti a fermarne? Perché lui, Lorenzo, perché è una tattica, lo faceva già anche in Italia, no? Perché bisogna sempre spostare l'argomento dove vuoi tu. Lui passa per un grande comunicatore grazie a questi trucchetti da imbonitore. Da certe parti funzionano, da certe altre parti meno. Io ho l'impressione che in Spagna funzionino meno. Però un conto sono i trucchetti, un conto è... Ieri sera non ha fatto il gesto delle manette perché l'aveva già fatta a Milano, evidentemente, dato che lo studio del personaggio è molto profondo, no? E della recita, quel gesto non può ripeterlo, e questo gli è mancato. Allora dopo ha dovuto esagerare in un'altra maniera, e dato che il cattivo gusto è la sua cifra di letture di educazione sportiva assoluta, che cosa ha fatto? Ha tirato in ballo l'UNICEF. C'è un messaggio magnifico scritto da firmato Gianmarco, che è arrivato da poco, e dice: ora si scopre da Mourinho che il Real ha perso per colpa dell'UNICEF. Beh, se così fosse, a sistemarli è stato un bambino di nome Lionel Messi. Lo trovo meraviglioso, Gianmarco, mi sono sull'attenti e mi sono cavato il cappello. Volevo chiederle, domanda Giovanni Bergamaschi da Parma, se è consentito a un allenatore espulso dirigere ugualmente la squadra mandando bigliettini alla panchina. Ma insomma, teoricamente no, ma insomma tra cellulari e tra tante possibilità di comunicazione. Anche Mourinho evidentemente se l'aspettava, avete visto che in pratica aveva una specie di mini suite adiacente alla panchina, vuol dire che insomma, si era attrezzato, no? Per l'eventuale, sapendo appunto della congiura UNICEF, probabilmente si era portato avanti con la sistemazione logistica. Cambiando argomento, no, cambiando mica tanto, perché il centralino segnala assalti ripetuti su Barça Real, questa è una data storica, perché Sergio Campana lunedì 9 maggio, e quindi tra poco più di 10 giorni, lascerà la presidenza del sindacato calciatori dell'AIC, che lui stesso ha fondato il 3 luglio del 68, quindi si chiuderà in pratica dopo quasi 43 anni l'era di Sergio Campana, che peraltro nell'ultima rielezione aveva accettato l'incarico solo a condizione che gli fosse riconosciuta la funzione di traghettatore. Adesso ci sarà la curiosità di conoscere il nome del successore, perché è possibile, anzi è probabile che tocchi a un ex calciatore. In un primo tempo, qualche anno fa, si pensava ad Albertini, che invece poi ha avuto un incarico federale, e adesso credo invece che uno dei candidati più seri potrebbe essere Damiano Tommasi, il il grande calciatore uomo ex della, della Roma e di alcune altre, e di alcune altre società. Dobbiamo sentire, sì, potremmo sentire qualche voce, no, ma le voci di Mourinho di ieri sera, sentendo gli ascoltatori, i loro commenti di prima, mi pare che le abbiano già sentite a sufficienza. Dunque, Giulio Torelli scrive: mi limito a dire che il fallo di Pepe, per chi ha giocato anche solo un po' a calcio, è da rosso senza se e senza ma. Ma mi è venuto in, mi è tornato in mente quando col alla guida del Chelsea lo sportivissimo Special One mise il macellaio Delorno su un diciottenne di nome Lionel Messi con il chiaro intento di spaccarlo. Fortunatamente non ci riuscì fino in fondo e oggi della piccola pulce ammiriamo le gesta da numero uno al mondo sia tecnicamente che nei comportamenti. Ma questo, e poi seguono alcune definizioni di Mourinho, non esattamente lusinghiere. Giuseppe da Milano ha chiamato, buongiorno. Buongiorno a lei Garanzini e a tutti gli ascoltatori. Senta, io guardo 4-5 partite l'anno e ascolto soltanto voi quando posso. L'anno scorso sono stato sfortunato, ho visto 4 volte l'Inter e malauguratamente 2 volte c'era il Barcellona. Sì. Quest'anno ho visto Manchester United Chelsea e ieri il secondo tempo di Real Madrid-Barcellona. Ho letto 480 passaggi del Barcellona, passaggi in alcuni casi di 2 metri avanti e indietro. Sì. Sono 2 Ferrari che se partono, secondo me, giocano alla grande e sono frenate. Uno dai passaggini e quell'altro dall'allenatore, vabbè, diciamo allenatore. Poi per fortuna si accende la luce al 31esimo e vabbè, Messi ha fatto quello che ha fatto. Secondo me non è divertente e non è neanche calcio 480 passaggi, anche se gli altri dicono è un gioco spettacolare, hanno tenuto palla, non è tenere palla. Io ho visto Rooney che faceva passaggi da 60 metri col calibro, cioè non dico che il calcio inglese è il migliore del mondo, mi sembra una cosa sbagliata questa. Ho finito. Per quanto riguarda invece l'espulsione, sa cosa penso io? A me è sembrato, e l'ho detto subito quando ho visto l'azione, poco prima Mascherano aveva fatto un fallo che non era bellissimo e mi è sembrato aver visto una smorfia dell'arbitro che ha detto il prossimo lo faccio fuori. E per quello può che essere. Forse l'ha espulso. Può essere, può essere, può essere. Si sono viste espulsioni più indiscutibili di quella, però io credo che sia in linea con i parametri di arbitraggio internazionale. Le raccomandazioni che vengono fatte agli arbitri in campo europeo e mondiale, prima di campionati d'Europa, prima di campionati del mondo, prima immagino anche di tornei come la Coppa Campioni, sono quelle per cui il gioco violento, l'entrata violenta sull'avversario va punita con l'espulsione diretta, e quella di ieri sera è un'entrata violenta sull'avversario, poi che giusto o meno, piace o meno eccetera, però è un parametro. Sulla lentezza del gioco del tic-tic-toc sono d'accordo con lei, però bisogna sempre interpretare, no? Cercare di capire il gioco del Barcellona non è un gioco sterile in partenza, perché quando il Barcellona gioca sul serio a pallone quel tic-tic-toc, quel possesso palla è preparatorio rispetto all'affondo, rispetto ai 60 metri che invece Garuni li fa Xavi, no? di lancio piuttosto che al cambio di campo. Ieri sera ci è riuscito qualche volta anche Piqué, però in genere loro preferiscono andare in porta in combinazione anziché con i lanci, primo. Secondo, giocavano, anche se ovviamente hanno, cioè se sono stati bravissimi a mascherarlo, ma giocavano comunque con 2 deficit gravi ieri sera, perché giocava, cioè non c'era Iniesta, e avere Iniesta o avere Keita proprio nella fase di accelerazione dal possesso della palla, cioè, qualcosina cambia. E dietro avevano 2 giocatori, sia pure 2 grandi giocatori, completamente fuori posizione. Puyol probabilmente sta tolto Messi, cioè dei giocatori normali, degli umani, Puyol forse è stato il migliore in campo per il mio, considerando che rientrava dopo 4 mesi e che se non era la prima volta che giocava da esterno sinistro sarà stata la seconda della sua carriera, perché lui è un centrale, ha fatto ogni tanto l'esterno, ma sempre a destra, mai a sinistra. Avere da quella parte o Ronaldo o Di Maria a seconda che ti puntano e non patire una sola volta l'avversario, insomma, significa aver fatto un partitone. Però se lei pensa, e se tutti insieme pensiamo, che a mezz'ora alla fine il Barça, la sua tranquillità di palleggio la stava perdendo, perché qualche palletta l'aveva persa, che si giocava al Bernabeu, che si giocava in casa, e che il Barcellona, oltre a questa, insomma, a questo momento che si stava facendo un po' più difficile di prima, aveva pur sempre comunque Mascherano centrale e Puyol esterno sinistro, e tu hai in panchina, ripeto, gente che si chiama Kakà, che si chiama Benzema e l'altro Higuain. Insomma, io credo che Pepe, costruttore di gioco, con quella gente lì in panchina, sia una bestemmia totale, assoluta. Forse a noi italiani ci colpisce ancora meno, ma credo che per i madridisti questo sia stata un'offesa che faranno molta fatica a mandare giù. E per madridisti intendo non solo Di Stefano o Valdano, intendo il madridista comune, il tifoso normale della strada, come si dice. Tindaro ha chiamato la provincia di Venezia. Tindaro, che bel nome. Buongiorno. Buongiorno, dica. No, volevo... Io ho visto la partita e sinceramente, almeno io ho giocato per tantissimi anni a calcio e per me è stata una bellissima partita. Poi chi si aspettava magari una partita spettacolare sotto altri punti di vista, la posta in palio è molto alta, una semifinale. Tra l'altro è Real Barça, dunque io non mi aspettavo una partita così, anche perché solo che secondo me Mourinho, che tutti conosciamo, che è molto cinico, secondo me si è fatto troppo prendere emotivamente dalla situazione, perché quando è stato espulso Pepe era solo 0-0. Sì. E dunque Pepe era quello che finora, cioè fino a quel punto, era riuscito a ingabbiare Messi, che poi è stata la mossa della partita. Mourinho secondo me ha sbagliato inserendo De Bayor, perché a quel punto, quando è stato espulso Pepe, doveva inserire un altro centrocampista facendo fuori a De Bayor, e secondo me lui ha avuto paura di fare questa mossa, perché poi se avrebbe perso facendo pure questa mossa era la sua rovina. Però era l'unica mossa che secondo me magari sarebbe riuscito a fare 0-0, ma non avrebbe perso 2-0. Beh, ma infatti sì, io sono abbastanza d'accordo, cioè, così come sono convinto che prima, più che Adebayor, oppure per carità vada per Adebayor, ma ci stava anche un centrocampista offensivo di altre caratteristiche, non dico un regista offensivo, perché Kakà non lo è, e nemmeno gli altri che va in panchina, pure se sono punte, sia Higuain che Benzema. Però così come era giusto prima dell'espulsione fare in maniera che in quella zona non ci fosse più Pepe a creare gioco, in teoria, dopo, una volta rimasti in 10, sì, lo 0-0, visto che era stato un po' l'obiettivo di partenza per come Real se l'è giocata, beh, doveva diventare un obbligo, e quindi tanto valeva, dice lei, provare a chiudere ulteriormente. Magari Adebayor era appena entrato, magari, non so, poteva toccare a Di Maria, che non mi sembrava in grande serata, ma insomma provare forse a rinforzare lì e a chiudere un po' di più sul palleggio del Barcellona. Marco ha chiamato la Latina, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Una considerazione sempre sulla partita di ieri sera, pensando all'anno scorso. Allora, la partita di ieri sera era l'andata in casa per il Real, come l'andata l'anno scorso di Inter-Barcellona. L'allenatore era Mourinho, l'avversario del Barcellona. L'atteggiamento dell'Inter è stato totalmente diverso da ieri sera. L'Inter aggrediva in casa, cercando di non pensare al Bernabeu ritorno. In realtà di ieri pensava solamente al ritorno. Anche perché era il Camp Nou. Sì, sì, ma in parte è vero, ma tenga conto che... L'andata era a Milano, sì. Sì, no, l'andata era a Milano, giustissimo. Poi l'Inter ha vinto 3-1, sì. Sì, ma la partita per forza era stata subito molto diversa, perché era andato in vantaggio il Barça. Sì, era andato in vantaggio, però all'inizio l'Inter ha reagito non pensando di fare troppi calcoli, ha fatto 3 gol a un Barcellona che comunque... Ma che calcoli vuoi fare quando hai già subito un gol in casa da Barcellona e devi ancora andare a giocare là? Non fai calcoli, te la giochi. Sì. Certo, però mi è sembrato un Real che ha pensato troppo al gol... al singolo gol, all'eventuale pareggio, eventuali calcoli, e probabilmente se fai giocare il Barcellona prima o poi arriva al tiro. Ieri l'Irada è arrivata al tiro una volta con Cristiano Ronaldo. Sì, sì, è vero, ma anche il Barcellona fino a quando ha avuto la, fino a quando è rimasto 11 contro 10 al tiro non c'è praticamente mai arrivato. Ha tirato una volta Viglia all'inizio, molto molto bene, la palla è uscita di poco e meritava di più. Ha tirato Xavi un'altra e direi finito, per cui tutte e due avevano il terrore di subire un gol, perché è chiaro che quello del Barcellona pesava doppio, ma è anche chiaro che giocare poi al Camp Nou un Barcellona così, che non è più nella sua fase più brillante di stagione, partendo da 0-1 con il Real sarebbe stata durissima. Secondo me si gioca ancora anche adesso, però è chiaro che adesso si gioca da parte del Barça in condizioni psicologiche, mentali e di tranquillità, insomma un po' diverse, questo mi sembra evidente. Ultimo intervallo, strade e autostrade. La rubrica di Nicola Filippone, sentiamo cosa è accaduto e quando un 28 di aprile. Sembra ieri. 28 aprile 1963. Tra l'Inter e il primo scudetto della gestione Angelo Moratti c'è un solo ostacolo. È la Juventus, seconda in classifica, che il tecnico brasiliano Paolo Amaral schiera con un insolito modulo a zona. I nerazzurri di Herrera si presentano a Torino con i favori del pronostico, ma anche con la consapevolezza che per piegare la resistenza di Sivori e compagni ci vorrà un'impresa. E infatti l'Inter soffre molto, anche perché a un certo punto si trova a giocare praticamente in nove, con picchi in campo claudicante e il mediano Zaglio costretto a uscire per infortunio. Ma i nerazzurri si erano portati in vantaggio dopo 27 minuti, grazie a un acuto del ventenne Mazzola, che batte Anzolin con un tiro che si insacca sotto l'incrocio, sugli sviluppi di un'iniziativa travolgente di Corso. L'Inter resiste e guadagna due punti preziosi, portando a sei lunghezze il distacco dalla Juve e ipotecando così il titolo. Mi scrive Piera, dice: lei non risponde ai miei sms, legge solo quelli contro Mourinho. Piera, non so, me lo rimandi, le giuro che con tutto quello che è arrivato e continua ad arrivare oggi non riesco a tenere dietro a tutto, perché c'è un microfono, c'è qualcuno con cui parlare, ci sono un sacco di cose da leggere, c'è anche il display per le notizie, perché non si sa mai che arrivi qualcosa. Il suo sms mi è sfuggito. Io dato che prima un ascoltatore mi chiedeva: ma arriva qualche messaggio, ha qualche mail pro Mourinho? Dico: guardi, sinceramente pochine, anzi punte, direi, perché mi sembra che dopo ieri sera sia oggettivamente abbastanza indifendibile, se non altro per quello che ha detto dopo, per i comportamenti, no? per questa battuta ignobile sull'Unicef, mentre invece arriva qualcuno che non è d'accordo sulla direzione di gara, o comunque che non è d'accordo su, per esempio, Giacomino Colombo scrive: grande recita del Barcellona con due grandi primi attori, Busquets e Dani Alves, già famoso sul palcoscenico di Siviglia, e un principiante con un grande futuro, Pedro Rodriguez. Un altro scrive: tifo sempre contro il Barcellona per un semplice motivo, il fastidioso lamentarsi collettivo e antisportivo che i giocatori blaugrana mettono in atto ogni volta che un loro giocatore viene sfiorato. Questo lo scrive Andrea Antonioni. L'ennesima simulazione di Pedro, no, questo è il contrario. Andrea Poli da Brescia scrive invece che Pedro non ha assolutamente simulato, perché in realtà Marcelo gli passeggia su una gamba dopo che lui ha cercato di avvitarsi per quel colpo di testa. Rivista l'immagine, è oggettivamente vero quello che scrive Andrea, ma insomma, io direi che queste sono piccole miserie e che tutto sommato mi pare invece che siano altri gli argomenti, no? E che una partita del genere ha dato. Per esempio, prima ho molto apprezzato quell'intervento tattico che arrivava da Venezia sul fatto che in realtà sì, è vero che questa partita ha un po' deluso chi si aspetta spettacolo a ogni costo, ma che se poi si va a vedere però insomma il coefficiente di difficoltà e di posta in palio diventa abbastanza inevitabile che una partita così sia molto molto tattica. Gli ultimi interventi di oggi, per esempio Luca da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo parlare proprio del Barcellona. Penso che sono stato proprio anticipato dai commenti che ho sentito adesso, nel senso che sento proprio questa, vedo proprio questa un po' antisportività quando il gioco della squadra avversaria si chiude un pochettino, come è successo per Mourinho sia con l'Inter che adesso con Real Madrid. Ho visto proprio che quando si chiude il Real Madrid gira proprio, il Barcellona gira proprio a tende proprio a stuzzicare un po' l'avversario, cercando sempre sempre gli fanno rimanere in 10. Questo è quello che ho visto palesemente in questa partita di ieri. Beh, ma non è il caso della partita di ieri, perché la partita di ieri non è che Alves tira nel momento decisivo, tira a far restare in 10 Barcellona. Alves sta rinviando un pallone e quell'altro gli arriva a zompo col piede a martello. Le do perfettamente ragione, però non stava girando palla in quel momento, stava rinviando, quindi non c'entra. No, il fallo è verissimo, però dico, durante tutta la partita, però se avete visto, era un continuo comunque buttarsi, fingere comunque, ogni minimo tocco era sempre una scena, insomma, non da Barcellona, ecco, il grande Barcellona ha un grandissimo gioco, però tante volte si perde in questo bicchiere d'acqua. Ma insomma, in questa che un po' abbia questo vizietto, sì, in queste proporzioni non direi. Tenga anche conto che questa non è una partita singola, che era una saga. Se andiamo a rivederci il primo tempo della finale di Coppa del Re, di randellate ne hanno prese, e a protestare con la bava alla bocca ad ogni fischio arbitrale erano gli altri. Credo che quando io dico avvelenare i pozzi, io ricordo sfide tra Barcellona e Real, la cui rivalità non è rivalità, perché è odio autentico allo stato puro in Spagna, e questo mi dispiace che sia così, ma è così, è storicamente così. Questa partita che era stata sempre avvelenata storicamente, negli ultimi anni era diventata una partita civile, ma prima di questo grande predominio del Barça, diciamo che da un decennio almeno a questa parte, dopo l'ultima volta che c'era stato un grande scontro ideologico, anche prima, subito dopo che Figo era passato dal Barça al Real, ecco, quella era stata forse l'ultima di sfida avvelenata, con la testa di maiale che era piovuta in campo, eccetera. Da allora in avanti la partita era diventata civile, e lo è stata fino, non so, sarà un caso, però lo è stata fino a quest'anno. Poi insomma, dire perché sia tornata ad avvelenarsi non mi sembra così difficile, ecco. Giacomo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, io volevo fare due considerazioni. Sì. Allora, la prima è che spesso sento parlare, soprattutto anche gli addetti ai lavori, di questo fantomatico possesso palla sterile. Ma io ho visto ieri, soprattutto nel primo tempo, il Barcellona che ha avuto un possesso palla che ho trovato tutt'altro che sterile. Mi spiego meglio, ho visto i giocatori del Real Madrid che cercavano di andare in pressione, certo, e senza portare una pressione organizzata, ma ho visto specialmente Cristiano Ronaldo praticamente innervosirsi e la squadra perdere autostima, caratteristica che invece il Barcellona ha costantemente. Quindi io non trovo che il possesso palla sia sterile, non necessariamente devo arrivare a tirare in porta per comunque portare la partita dalla mia parte. Questa è la prima considerazione. Giustissimo. Invece, la seconda, una domanda che è un po' di tempo che mi faccio, ma non ho trovato mai risposta: ma perché il calcio è l'unico sport dove le dimensioni del campo non sono uguali in tutti gli stadi? Cioè, mi spiego meglio, è diverso che giocare sul campo del Barcellona piuttosto che sul campo, faccio un esempio, quello della Regina. Il gioco cambia totalmente. Mm-hmm. L'ampiezza del campo viene sfruttata in modo estremamente efficace da squadre come Barcellona. Sì, sì, è verissimo, però da un punto di vista regolamentare le misure di un campo da gioco sono da A. E quindi stia pur certo che tutti questi campi, per essere omologati, sono regolari. Ciascuno tira acqua su mulino, anche da questo punto di vista, perché secondo lei la palla correva bene ieri sera? No, era esattamente come la prima partita delle tre. Perché? Perché il Real il campo non l'ha bagnato, no? E soprattutto all'inizio si vedeva benissimo che sta palla faceva fatica a correre rispetto alla norma. Però se il Real gioca in casa e dato che appunto non è reato non bagnare il campo, fa benissimo. Io sono convinto che al Camp Nou il campo sarà più bagnato e la palla scorrerà più veloce, sempre che poi magari non piovano un diluvio che era l'altro discorso, la palla scorrerà più veloce di ieri sera. Mi arriva un messaggio che è di Fabio Tavelli, che mi molto cortesemente, lo ringrazio davvero, mi ricorda una cosa di cui non si è ancora parlato e che invece è importante. Il Barça non aveva più il portiere di riserva nel secondo tempo, perché Pitto è stato espulso nell'intervallo, Allora Fabio si domanda, ma magari provare a puntare Valdés, no? In uscita, cioè provare qualche combinazione d'attacco per vedere se per caso il Barça poteva anche non restare senza portiere. Certo, perché sarebbe stata un'idea, però per avere quell'idea lì bisognava passare la metà campo, bisognava avere magari qualche attaccante in campo in più, e invece soltanto una volta c'è stata, no, una combinazione, un lancio lungo per Ronaldo, l'unico errore condiviso tra Piqué e Puyol, che si sono centrati tra loro invece di prendere la palla, e Ronaldo a momenti non rischiava di approfittarne. Giovanni Palermo, buongiorno. Buongiorno, salve Garanzia. Dica. Una domanda e una considerazione. La domanda è: lei pensa che il calcio del Barcellona col tempo verrà esportato e quindi avrà una diffusione anche negli altri campionati? E la considerazione è questa: a mio avviso il cosiddetto tiki-taka, come in maniera riduttiva alcuni chiamano il gioco del Barcellona, è dovuto al fatto che le squadre avversarie si chiudono e questo impedisce al Barcellona. Quindi io ritengo che fondamentalmente questo sia un modo di gioco che è estremamente difficile, tant'è vero che certo, le altre squadre riescono a triangolare o fraseggiare, ci riescono soltanto senza avere un dominio del campo, cosa che il Barcellona riesce a fare. Grazie, ascolto per radio. Grazie a lei Giovanni, sì, questo è vero. Io anch'io ho qualche dubbio che il modello del Barça sia esportabile. Allora, è esportabile, sarebbe auspicabile che fosse esportabile un modello che prevede di crescersi i ragazzini e i grandi talenti in casa. Ieri sera Guardiola alla fine, mentre quell'altro si dedicava ad attaccare l'Unicef, ad insultare l'Unicef e il Barcellona insieme, Guardiola si è limitato invece a ricordare che 12 di questi giocatori che ieri sera erano a referto, cioè tra campo e panchina, sono nati nella magia del Barcellona. Credo che sia una grande soddisfazione, in questo potrebbe essere esportabile. E poi c'era un messaggio molto carino: Sportsera, mi informa Roberto, ha accoppiato la rubrica di Filippone tutti i giorni alle 18 su Rai 2. Beh, insomma, bene, vuol dire che abbiamo seminato bene. Poi copiare non vuol dire arrivare allo stesso livello, anzi quasi mai. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie a Paolo Corleone in regia, a Franco Piantanide in redazione, Giornale Radio.